Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che è andata a ritrovare una vecchia amica, Luciana Romoli, che nel Pioniere, dagli anni 50 in avanti, ha avuto un ruolo molto importante perché era la segretaria tecnica di redazione. Quindi, tramite Luciana Romoli, ormai in età, ma ancora assolutamente lucida, possiamo ricostruire non solo come funzionava la redazione del Pioniere, ma anche ridisegnare i tratti dei suoi maggiori protagonisti, Gianni Rodari, Dina Rinaldi, cominciando poi con Carlo Pagliarini, che è il fondatore dell'Associazione Pionieri Italiani. Ascoltiamo l'intervista di Morina Moretti. Senti, raccontami un po' di Pagliarini come uomo. Come Pagliarini era, mentre Rodari era silenzioso, Pagliarini era allegro, era una persona allegra, sensibile. Lui era molto preoccupato per la mia salute, perché io ero magrissima, e loro, quando hanno scoperto che io da Casa Albertoni arrivavo a Via Piemonte a piedi, perché arrivavo sempre affannata, sempre, e allora loro mi hanno fatto la tessera del tram. L'hanno pagata loro per agevolare. L'hanno pagata loro, hanno messo un po' di soldi per uno. Carpi, Pagliarini, Rodari e Dina Rodari. Hanno messo un po' per uno e mi hanno fatto la destra del tram. Ogni mese mi facevano la destra, perché se no io venivo a piedi, io non c'avevo una lira, quindi capito. Senti, e tra il rapporto tra appunto Pagliarini, Rodari, questa è la relazione del Pioniere e dell'Ascoli, sai che cosa c'è? Andavano d'accordo? Che loro andavano d'accordissimo. Tra di loro, ma con altri dirigenti del partito? No, con i dirigenti del partito no. C'era poca sensibilità sulla questione dell'infanzia? No, Di Vittorio no. Di Vittorio era proprio... Di Vittorio e Terracini... Niente. Erano proprio amanti di... Ah! Erano forse anche a Mendola, però, diciamo che andavano d'accordo con queste persone, sì, però c'erano dei contrasti sulla questione. Però c'erano, per esempio, c'erano alcuni che insomma erano cattolici, capito? Quelli che erano cattolici. Non gli andava tanto bene che ci fosse questo modello educativo, diciamo, più legato ai comunisti. Sì, anche perché noi educavamo i ragazzi alla libertà di pensiero. A loro non gli andava bene la libertà di pensiero. Ai cattolici gli andava, volevano che i ragazzi credessero in Dio, credessero che rispettassero i misteri. Noi invece proprio una religione zero, capito? Quindi c'era già questa... E quindi quando si è deciso di chiudere? Prima no, è stato traumatico. No, ma quello è stato traumatico, sì. Perché con gli altri... Ma loro, i bambini non ce li volevano, i figli dei comunisti non ce li volevano nell'oratorio. E allora che dovevano fare? Dovevano stare per strada a fare i delinquenti. Che all'epoca, tra l'altro, di bambini per strada ce n'erano tanti, tu hai lavorato. Ce n'erano tanti, io ero responsabile delle ragazze delle borgate, figurati, i bambini li portavo tutti all'api. Senti, la scuola era... molti bambini non andavano a scuola all'epoca. E non andavano a scuola perché non c'erano neanche le scarpe per andare a scuola. Poi a scuola bisognava portare il grembiule, se non c'avevi il grembiule mica ti facevano entrare a scuola. Quindi la situazione dell'infanzia era veramente drammatica. Drammaticissima. Quindi tu facevi proprio un lavoro anche sul campo. Certo, perché stando lì alle borgate, capito? C'era una lettera con scritta a mio marito che c'era l'alluvione a Roma. E lì una cosa... Dell'Aniene? Non fu l'Aniene, ma c'è stato un diluvio universale. e le baracche che ci avevano i bandoni che adesso sono quelli che si chiamavano di lamiera, che erano da lì, che caddero sulla destra, ci furono tantissimi feriti, madonne, perché le baracche non c'avevano le fondamenta, anche se erano di muro, non c'avevano le, quindi con l'alluvione sono crollati, capito? Luciana, ti chiederei l'ultima cosa, quindi sia Pagliarini che Rodari e che... loro andavano molto d'accordo e sono stati sempre iscritti al sito. Ti voglio dire una cosa, però Pagliarini sì, aveva un po' di soggezione di Rodari, e se Rodari lo contestava gli diceva: noi siamo pari, siamo uguali, tutte le persone che lavorano con me devono avere la stessa parità, io non sono il vostro datore di lavoro, io sono come voi, facciamo parte di un comitato, qui non c'è il capo, quindi questo bisogna proprio che voi ve lo mettete bene in testa, sì. Rodari gestiva le cose, Rodari gestiva le cose in questo modo, e Dina Rinaldi era dello stesso parere di me. Quindi tutti quelli che venivano, anche quelli che venivano da fuori Roma, che c'era la riunione dei dirigenti dell'API di tutta l'Italia, lui la prima cosa che diceva Rodari che ci doveva essere la parità, parità di pensiero, parità di... Sì, sì. Loro tutti dovevano dire la loro opinione, fare la... raccontare quello che facevano nella loro città, come... perché dalla direzione nazionale dell'API mandavamo le direttive, però queste direttive che dovevano essere applicate poi nelle varie città, Roma, Modena, la Puglia, la cosa, poi loro dovevano fare in modo, secondo le loro esigenze di trasportarle nella loro non realtà. È che loro dovevano prendere oro colato le direttive che erano le direttive dell'API nazionale, erano consigli, indicazioni, però ognuno doveva esercitare nella propria territorio, soprattutto volevo fare in modo che i bambini avessero un'indipendenza di giudizio. Quello che Rotari ci raccomandava, che loro non dovevano essere i padroni dei bambini, loro non dovevano comportarsi da dirigenti, sì, perché certo, dovevano, i ragazzi dovevano rispettare gli adulti che li insegnavano, però guai se i bambini non avessero avuto un'indipendenza di giudizio. Se tu studi questo, Rosari andava di meno in giro nelle città. Nelle città ci andava per Pagliarini, ci andava. Quando c'erano le riunioni del Comitato Centrale, del Comitato Federale, che si discutevano, che si parlava dell'API, allora Pagliarini, Rinaldi e altri dell'API andavano a queste riunioni. Qualcuno accusò anche Pagliarini in merito all'API di inquadrare i bambini. Ci fu questa critica che veniva anche un po' da qualcuno del Partito Comunista, da fuori, si diceva sì perché poi vengono inquadrati, eccetera. Cosa ne pensi di questa critica? Mi sembra che tu mi stai dicendo che la filosofia era diversa. Dato che loro, togliate, ha dato retta da De Gasperi, no? Perché, scusa, non volete che vengano a giocare a pallone all'oratorio? E allora noi li facciamo giocare da un'altra parte. Poi quando con gli occhi l'ha chiuso, io l'ho visto piangere. Tipo Pagliarini, Rodari, dici proprio. No, ma perché poi, certo, quando andavamo alle riunioni, del Comitato Federale di Modena, di Reggio Emilia, di Napoli, io, Pagliarini, che portava le idee dell'API, sì, veniva contestato, perché certo loro non volevano così, capito? Però noi riuscivamo sempre vittoriosi, perché poi quando loro andavano a vedere che c'erano i risultati, 10 squadre sportive di pallavolo, 5 squadre di pallacanestro, gruppi che facevano teatro, che facevano teatro, dopo si ricredevano, capito? Perché poi nel Comitato Federale, ma nelle sezioni del Partito Comunista l'attività si svolgeva, sì, sì. E allora, specialmente in Emilia, loro si litigavano con il partito, perché dicevano, ma come, noi stiamo facendo questo, questo e questo, questi sono i futuri iscritti alla CGC. I futuri dirigenti di questo, ma anche di questo paese, insomma, formazione giovanile. Continuiamo parlando di Gianni Rodari, che non solo sapeva parlare ai bambini con filastrocche o con i suoi racconti, ma aveva tanto da insegnare anche agli adulti. Il suo libro capolavoro, La grammatica della fantasia, ha proprio una parte dedicata ai fumetti. Riascoltiamola con la lettura di Morena Moretti. Thank you. bambino che legge i fumetti. Se c'è un asse dell'ascolto, c'è anche un asse della lettura. A esplorarlo, seguendo o immaginando il lavoro mentale di un bambino che legge un fumetto, si dovrebbero fare scoperte interessanti. Il bambino ha 6-7 anni, ha superato la fase in cui si faceva leggere il fumetto dal padre e se ne inventava una lettura di fantasia, interpretando le vignette secondo indizi noti a lui solo. Ora sa leggere. Il fumetto è la sua prima lettura veramente spontanea e motivata. Legge perché vuol sapere che cosa succede, non perché gli è stato assegnato questo compito. Legge per sé, non per altri, il maestro, non per far bella figura, il voto. Egli deve per prima cosa individuare e riconoscere i personaggi nelle successive situazioni, mantenere salda la loro identità nelle diverse posizioni che assumono con espressioni mutevoli, presentandosi a volte in diverse colorazioni di cui egli stesso interpreterà il significato. Rosso la rabbia, giallo la paura. Ma il codice del colore psicologico non è dato una volta per tutte, può essere ricreato ogni volta dal disegnatore, andrà da capo riscoperto e ricostruito. Ai personaggi egli deve attribuire una voce. È vero che in ogni nuvoletta il punto di partenza è quasi sempre indicato con precisione. Quella bocca se il personaggio parla, quella testa se il personaggio pensa. E anche la distinzione tra battute pronunciate e battute pensate comporta la retta lettura di certi segnali. Quando i personaggi dialogano, egli deve attribuire le battute all'uno o all'altro, capire in che ordine vengono pronunciate. Non sempre il tempo nel fumetto va da sinistra a destra come la linea tipografica. Se sono contemporanee, se un personaggio parla e l'altro pensa, se uno di loro pensa una cosa e ne dice un'altra, eccetera. Contemporaneamente egli deve riconoscere e distinguere gli ambienti, interni ed esterni, registrare le loro modificazioni, la loro influenza sui personaggi, cogliere gli elementi che anticipano ciò che potrà capitare al personaggio se farà una certa cosa o andrà in un certo posto. E lui non lo sa, perché non è onnisciente come l'attento lettore. Nel fumetto l'ambiente non è quasi mai decorativo, ma funzionale alla narrazione, struttura della narrazione. L'intervento attivo, anzi attivissimo, dell'immaginazione è richiesto per riempire i vuoti tra una vignetta e l'altra. Al cinema o davanti al teleschermo le immagini si susseguono con continuità, descrivendo punto per punto lo scorrere dell'azione. Nel fumetto l'azione può cominciare dalla prima vignetta e concludersi nella successiva, saltando tutti i passaggi intermedi. Il personaggio che prima stava baldanzosamente a cavallo nella seconda è finito nella polvere. La caduta vera e propria è tutta da immaginare. Di un certo gesto è visibile l'effetto finale, ma non lo svolgimento. Gli oggetti si presentano in una disposizione mutata. Bisogna immaginare il percorso compiuto da ciascuno di loro, dalla disposizione primitiva alla nuova. Tutto questo lavoro è affidato alla mente del lettore. Se il cinema è una scrittura, il fumetto è una stenografia dalla quale bisogna risalire al testo. Intanto il lettore non dovrà perdere di vista i suoni indicati nelle apposite nuvolette, afferrarne le sfumature. Uno squash non è uno screck. Individuarne la causa. Nei fumetti più banali l'alfabeto dei rumori è molto limitato e grossolano. In quelli comici o in quelli più sofisticati, ai rumori fondamentali si aggiungono spesso nuove invenzioni e anche queste vanno decifrate. L'intero corso della storia è da ricostruire nell'immaginazione, combinando le indicazioni fornite dalle didascalie con quelle dei dialoghi e dei rumori, con quelle del disegno e del colore, riunendo mentalmente in un solo filo continuo di tanti fili spezzati di cui consta la sceneggiatura, la cui trama rimane invisibile per lunghi tratti. È il lettore che dà un senso al tutto, ai caratteri dei personaggi che non sono descritti ma mostrati in azione, ai loro rapporti che risultano dall'azione e dai suoi sviluppi, dall'azione stessa che gli si svela solo per salti e frammenti. Per un bambino di 6-7 anni mi sembra un lavoro sufficientemente impegnativo, ricco di operazioni logiche fantastiche, indipendentemente dal valore e dai contenuti del fumetto, che qui non sono in discussione. La sua immaginazione non assiste passiva, ma è sollecitata a prendere posizione, ad analizzare e sintetizzare, classificare e decidere. Non c'è posto per la vacua fantasticheria. Finché la mente è costretta a un'attenzione complessa, la fantasia chiamata ad assolvere le sue funzioni più nobili. Direi che, fino ad un certo punto, l'interesse principale del bambino al fumetto non è condizionato dai suoi contenuti, ma è in presa diretta con la forma e la sostanza dell'espressione del fumetto stesso. Il bambino vuole impadronirsi del mezzo, ecco, legge il fumetto per imparare a leggere il fumetto, per capirne le regole e le convenzioni, gode del lavoro della propria immaginazione più che delle avventure del personaggio, gioca con la propria mente, non con la storia, non che le cose accettino di essere così perentoriamente distinte, ma vale la pena di distinguerle, se la distinzione ci aiuta a non sottovalutare il bambino, nemmeno in questo caso, a non sottovalutare la sua serietà di fondo, l'impegno morale che mette in tutte le sue cose. Tutto il resto sui fumetti è già stato detto nel bene e nel male, e io non lo ripeterò. Storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della Fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. Mafalda. Settembre 1964. 55 anni fa nasceva Mafalda. Mafalda, una bambina di 6 anni dalla chioma ribelle e fiocchetti in testa, è sempre tutta presa dai grandi interrogativi esistenziali sull'umanità e sui destini del mondo. Sulla rivista Primera Plana si presenta così Mafalda, la protagonista dell'omonima striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino. Apparsa inizialmente in una pubblicità di elettrodomestici, Mafalda in realtà viene disegnata per la prima volta nel marzo del 1962, ma la striscia rimane inedita fino al 1964. La sua ansia di cambiare il mondo la farà diventare in poco tempo un'icona per le giovani generazioni e in Sud America, in particolare in Argentina, è considerata un'eroina, al punto che le è stata intitolata una piazza nella capitale di Buenos Aires. Mafalda ha venduto ad oggi circa 50 milioni di copie in tutto il mondo. Le sue strisce sono state pubblicate in 50 paesi e tradotte in 20 lingue. L'autore cessò intenzionalmente di realizzarla nel 1973. Da allora ad oggi è costantemente ristampata. Ci sarà un motivo. Vorrei guardare il mondo con gli occhi di Mafalda, un grammo di saggezza e due di testa calda, un po' di sfrontatezza e il naso a patatina, per dire a muso tondo la verità sul mondo, per rivelare ai grandi le cose che non sanno o i danni che combinano quando escono di senno, per dire loro che prima di far la guerra dovrebbero contare almeno fino a tre, roteando il mappamondo col tocco delle dita, osserverei la terra cercando ogni ferita, che curerei col bandai delle cadute in bici, incerottando i lividi dei popoli infelici, e quando avrò finito io mi sentirò leggero, come se avessi fatto un favore al mondo intero, dicendo a tutti quanti le cose come stanno, con l'aria un po' ribalda e il muso di Mafalda, con l'aria un po' ribalda e il muso di Mafalda. Quanti le cose come stanno, con l'aria un po' ribalda e il muso di Mafalda, con l'aria un po' ribalda e il muso di Mafalda. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va?